RadioTube Social Network. 17:06 minuti, siamo ancora insieme con la seconda ora di RadioTube. Dopo l'ora di RadioTube Social Village abbiamo parlato molto della Mostra del Cinema di Venezia, ma ne parleremo anche domattina in RadioTube l'intervista, perché avremo con noi Alessandro Gassman, protagonista di Non Odiare, un altro dei film di Venezia che sono già al cinema. Quindi davvero la Mostra del Cinema ha presentato film che con mia grande gioia arrivano subito in sala, perché mi spiace molto parlare di film alla radio e poi dire chissà quando escono, magari non escono, ci sono film che escono magari un anno dopo i festival, no, ecco, questi sono subito in sala e sono molto contenta di ciò. Abbiamo parlato anche di televisione con la ripresa, sì, no, forse, di alcune trasmissioni televisive. C'è l'incognita ovviamente dei contagi, del timore dei contagi nelle redazioni, nei cast, e quindi ci sono sempre trasmissioni in diretta che rischiano fino all'ultimo, speriamo di no. E abbiamo appena parlato dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa. Non so se ci ha sentito il co-conduttore, magari era già collegato, magari invece si stava preparando, non so se ci ha sentito il co-conduttore di oggi. Come sono contenta di averlo collegato, io lo vorrei tutte le settimane. Michele Boroni, ciao Michele! Buongiorno, buongiorno Marta, buongiorno al pubblico di Radio 24. Ho sentito veramente l'ultimissima parte. Perché Michele sa la mia passione per la pubblicità, per l'archivio, sì. Però dai, è vero che queste cose sono... è un'espressione trita e ritrita, però lo specchio soprattutto del Novecento, e sono materiali fondamentali. Questo canale di YouTube che ho segnalato mi piace molto, e trovo che sia, ad esempio, appunto, come dicevo, potenzialmente un serbatoio di grandi storie anche per gli insegnanti. Sì. La cosa interessante è proprio oggi, voglio dire, studiare la storia, soprattutto quella contemporanea o comunque quella dell'ultimo secolo, eccetera, non vuol dire solo studiare gli eventi storici, diciamo quelli classici, ma anche appunto raccontare storie di imprenditorie, di persone, di famiglie che sono riuscite attraverso l'ingegno e l'idea a creare lavoro, benessere, eccetera. Quindi assolutamente sono interessanti, se poi sono anche raccontate bene attraverso documentari, spot, eccetera, tanto meglio, insomma, se anche con un linguaggio che poi anche i ragazzi possono apprezzare in qualche modo. Documentari, spot o anche cataloghi, e poi ne parleremo, perché questo è il momento dell'anno in cui c'è un'altra azienda che parla sempre molto di noi, che fa uscire un famoso catalogo, quella famosa azienda svedese di mobili che non citiamo, ma insomma l'avete capito, perché Michele Boroni è un esegeta della sociologia del mobile, e ne parleremo tra poco, perché voglio sapere, ho già letto qualcosa in rete di quello che ha scritto, ma voglio sapere cosa dice di noi quest'anno quella famosa azienda. Dai, però parliamo un po' dei video della settimana. Ho deciso di non parlare di alcuni argomenti, perché sennò poi mi scaldo, mi innervosisco, tipo dei negazionisti, non ho voglia di parlare, perché sennò dopo devo prendere le cose per il Malox, quelle cose lì, no, meglio di no. Non fa bene, perché poi mi innervosisco, no. Torna Crozza, sta per tornare Crozza, come ha fatto anche gli anni scorsi, comincia a darci delle pillole dei prossimi personaggi, e io non sono una fan acritica, a volte mi diverto, a volte no, a volte i personaggi mi piacciono, a volte no. Questa volta mi è piaciuto moltissimo il professor Zangrillo, eccolo qua. Dottor Zangrillo, è ancora convinto che il virus sia morto? Allora, clinicamente il virus non esiste più. Ma non è clinicamente. Vero. Allora, la mia è stata un'uscita un po' stonata, stonata, ma allora, ospedalmente, clinicamente non esiste più. Ma non è vero. Ospedalmente può fare un capolino, soccorsamente rompe le palle, appunto. Ma clinicamente non esiste più. Dai, non è male, Michele, mi piace questa caricatura non cattiva, così un po' sottile. È bella, è bella, è bella. No, ma devo dire che Crozza e i suoi autori sono molto bravi a accogliere i tic e in questo caso le frasi, no? Perché in questo caso c'è questa frase del clinicamente, del virus che clinicamente era morto e che poi dopo in qualche modo si è dovuto giustificare utilizzando anche questo clinicamente in varie modalità e sono stati molto bravi a cogliere il come dire proprio questo segno, questa frase e poi Cross è molto bravo anche ho visto il video e devo dire che gli assomiglia anche, quindi sì, gli assomiglia molto, anche truccatori. Gli assomiglia molto, sì. Ho molte aspettative su questo personaggio. Questa settimana però purtroppo dobbiamo parlare anche di personaggi famosi che sono risultati positivi, qualcuno è stato anche ricoverato in ospedale, quindi sono argomenti abbastanza delicati, ovviamente auguriamo una prontissima guarigione a tutti, però ci sono anche dei video che, come si suol dire, hanno fatto il giro della rete. Io sono impazzita per il video del Cardinale Sepe che ai giornalisti ha detto così. Oh, maronna mia, io non sapevo, me l'hanno detto, dice che è risultato positivo, e mo mangia fa, o come si chiama là? O tambù. Io già ne ho già fatte 3-4, uno in più, uno in meno, che devo fare? Perché là, lì ci siamo avvicinati, abbracciati, e questo e quello, il deriva né mascherina né niente. Io la mascherina la tenevo solo simbolicamente, così sotto, però... Facciamo un augurio a De Laurentiis. Il cardinale Crescenzio Sepe che diceva la mascherina la tenevo solo simbolicamente. Simbolicamente. Solo simbolicamente. Mi viene da ridere però. Sì. Che dire. Allora, è un personaggio da commedia di De Filippo, no? Anche questa cosa del tampone. O tampone, come si usa tampone. No, ma poi che dice, maronna mia, ma sei cardinale? No, anche questa cosa dell'utilizzo simbolico della mascherina è una perla che fa ridere quanto arrabbiare, no? Che rappresenta un po' tutta una certa ipocrisia di certi italiani nei confronti delle regole, della scienza, della malattia. Poi detto cardinale è ancora, come dire, è straordinario. Sono impazzita per questo video perché veramente può avere milioni di letture. Sì. Tra l'altro con alcuni colleghi discutevamo via Twitter, effettivamente ad esempio a Venezia mi sono comportata così, all'intervistato non chiedo di mettere la mascherina perché purtroppo non si sente bene la voce alla radio, io la porto ma sto comunque molto lontana, devo dire che spero che dopo il Covid non tornino gli assembramenti di giornalisti attorno all'intervistato, qua erano un po' troppo vicini, ragazzi dovevate allontanarvi secondo me, perché ecco un po' più lontani comunque, e poi la mascherina la portavo simbolicamente. Che video straordinario nella sua assurdità. Facciamo un sacco di auguri a De Laurentiis e anche a Silvio Berlusconi, anche perché secondo me Silvio Berlusconi è uno degli uomini più coerenti d'Italia, perché sentitelo qua. Uscire da questa infernale malattia che è molto brutta, perché è una malattia, pensate che io e Sara Bella hanno fatto non so quante migliaia di esami e io sono riuscito tra i primi 5 come forza del virus, ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a ritornare in pista. Allora, intanto, ovviamente, forza Silvio, perché per forza, ecco, dai Silvio. In collegamento con l'Assemblea dei Deputati di Forza Italia, ovviamente lui il Covid non ce l'ha normale. Cioè, no, lui è più forte di tutti. Certo, grandissimo, grandissimo. Che cosa dobbiamo dire? Lui ce l'ha più forte di tutti. Cioè, allora, siamo in una fase in cui ovviamente, grazie al cielo, non ci sono le morti che si sono registrate nella fase 1. E quindi, diciamo, si può anche fare dell'ironia, che non significa sottovalutare la gravità, ma in qualche modo alleggerire la tensione. Però c'è da dire che la realtà... ancora più ironica, cioè i protagonisti sono ancora più ironici di chi invece dovrebbe fare ironia, perché insomma dal cardinale era difficilissimo fare ironia a Berlusconi, sì, sì. Sarà dura anche per Crozza, immagino, fare delle battute ancora più ficcanti. Però devo ribadire ancora, io poi quando parlo cerco di usare milioni di cautele, ma non sono mai abbastanza, perché arrivano i messaggi di critica al 349-238-6666. Ecco, ma lei ride del cardinale senza mascherina? Che bella trasmissione la sua! Ma l'abbiamo detto, è una cosa grave, però è comica nell'assurdità questa frase, e questa esternazione era veramente comica nella sua assurdità. Una trasmissione molto educativa. Non ho la presunzione di educare nessuno, quello me lo conceda, però davvero, con tutte gli auguri di pronta guarigione a chi si è ammalato e con la difesa al 100% della mascherina, però quel video li faceva ridere, no, non è che ci può, a me sai cosa c'è, Marta? Forse in radio mancano gli emoticon, no? Che ormai sono un po' quelle forme ormai a cui tutti noi siamo abituati e che fanno capire quando una frase è io uso sempre o quello che ride alle lacrime, oppure quello, sì, con un occhio chiuso e un occhio aperto che fa la linguaccia quella storta, quelli uso molto, oppure uso quello col cervello che esplode, quelli sono i miei preferiti. Bellissimo, quella è molto bella. Il cervello che esplode è molto mia. 17:18, devo scusarmi tantissimo col collega o la collega che sta per fare la viabilità perché sono un po' in ritardo, davvero viabilità, e poi saremo ancora insieme con un sacco di argomenti per Michele Boroni e per Radio 3. RadioTube Social Network. Eccoci ancora insieme con il nostro RadioTube, è il momento in cui sentiamo un po' di, vediamo alla radio, come diciamo, tipo mostriamo alla radio un po' dei video più condivisi questa settimana, sicuramente sui social network, ma anche in primo piano sulle home page dei vari giornali. Io sto evitando, lo dicevo prima, quelli sui negazionisti, poi siamo in par condicio, quindi non dobbiamo entrare nel merito di alcuni argomenti nei quali io volontariamente, anche molto volentieri, non entro con grande piacere, ma è ovvio che ci sono argomenti questa settimana che non si possono evitare. Il bruttissimo episodio di Colleferro, ne stiamo parlando molto nei giornali radio, ne stiamo parlando moltissimo nelle trasmissioni di attualità. Non voglio entrare nel merito, ma non per autocensura, ma perché non trovo che sia un ragionamento da fare in RadioTube, che parla molto di comunicazione, a volte anche col sorriso, a volte no. Però c'è un aspetto che riguarda molto la rete, sicuramente un aspetto molto secondario, però che mi ha spinto a una riflessione e mi faccio delle domande alle quali non ho ancora del tutto risposta. Questo è Gali. Ragazzi, ma tutti i colleghi che non stanno dicendo niente sull'accaduto, su quello che è successo a Willy, tutto a posto? Siete sicuri? Tutto ok? Avete delle cose più importanti da comunicare in questo momento? Comunque le cose sono due. O non ve ne frega niente, oppure siete molto simili a quei quattro ragazzi. O avete tanti amici, o avete degli amici simili a loro, siete in un environment, in un ambiente simile a quello. Perché nel rap italiano succede questo, è così. Quando sentite degli istanti di silenzio è perché spesso questi sono degli audio che arrivano da stories di Instagram. Gali è stato uno dei primi a prendere posizione in merito a quello che è successo a Colleferro, la bruttissima storia di Colleferro. Ma la riflessione a margine, lo dico ancora una volta, quante mani avanti metto oggi, però mi rendo conto che tanto spesso le cose vengono male interpretate. Non sto dicendo che questo sia il problema più grande, tutt'altro, però è una delle riflessioni che mi sono venute su questa storia tremenda. Ma gli artisti devono per forza esprimersi e prendere posizione su qualsiasi argomento. Cioè, è vero che se una persona non dice qualcosa è complice di chi ha commesso un reato. Mi chiedo se deve essere per forza così. Io credo che l'unico pensiero moralmente possibile su questa vicenda, cioè ce ne sia proprio solo uno, ma è obbligo nel 2020 per ogni artista esprimersi su ogni fatto di questo tipo. Michele, tu cosa ne pensi? Io non ho una risposta, Allora, sì, il tema è piuttosto spinoso, però importante, secondo me, ed è giusto anche fare delle riflessioni. Allora, secondo me Gali eccede quando parla di complicità laddove non se ne parli. Quello è troppo, sicuramente. Però è vera una cosa, e questo soprattutto per quanto riguarda artisti musicisti, ok? Parliamo nel campo della musica, che è poi quella a cui si riferiva Gali. Allora, negli ultimi 8-10 anni c'è stata una rivoluzione grossa dal punto di vista musicale nel mondo, ma adesso guardiamo l'Italia, legata anche evidentemente al potere dei social network. I cantanti oggi, che piacciono ai ragazzi, non sono più quelli che hanno studiato musica, che sono virtuosi nel suonare uno strumento, hanno una bella voce, hanno fatto la gavetta, eccetera, eccetera, ma sono in qualche modo persone come loro, sono ragazzi come i ragazzi che mm-hmm. appunto come i fan, ok? Magari un po' più sfrontati degli altri, e che quindi sono riusciti ad avere successo. Quindi i ragazzi oggi vedono i loro beniamini non come delle star irraggiungibili, come è stato nei decenni passati, ma proprio come dei loro coetanei, a cui peraltro possono anche rivolgersi, chiacchierare, perché sappiamo benissimo che grazie ai social network è facile, diciamo noi, contattarli e parlarci. Per questo credo che il discorso di Gali non sia proprio così del tutto fuori luogo, e quindi forse vale la pena per appunto rapper, perché tanto è di quello che parliamo, eccetera, forse anche loro dovrebbero dare comunque una loro, insomma, non essere indifferenti, in qualche modo dire la loro, ovviamente non sfruttare la situazione. Certo, certo, perché poi anche quell'aspetto è sempre in agguato. No, certo, certo, no, ma infatti per quello dico è un argomento molto delicato. Però ecco, secondo me c'è questa vicinanza proprio da un punto di vista generazionale, no? Cioè adesso i ragazzi, cioè i rapper sono ragazzi che, insomma, voglio dire, non hanno questo grande talento, no? Rispetto a quelli che erano le star negli anni 80-90, che ci possiamo ricordare noi, che magari hanno suonato, erano dei musicisti, hanno un modo, cioè, diverso sicuramente di affrontare la musica, come ci spiegava la scorsa settimana in maniera molto divertente Gigi D'Alessio, lui comunque diplomato al conservatorio in pianoforte, certo, che ha fatto un disco con dei rapper che gli facevano delle cosine con l'iPhone, gliele davano in mano, e lui ha capito che il mondo era cambiato, però giustamente ha detto ok, sì, questo è, e lo abbracciamo. Tra l'altro, un ascoltatore al 349-6666 scrive: ottima considerazione, io la risposta ce l'ho, nessuno è tuttologo, tanti si comportano come tali, quindi se non si ha nulla di originale da dire, meglio tacere. Chi è famoso ha il dovere di fare la morale? Non lo so. Io sono un po' combattuta, proprio perché a volte su questa cosa era talmente chiaro e cristallino il fatto che si potesse avere solo un pensiero, che anche magari una persona che non si è espressa facendo una storia su Instagram, non è detto che fosse complice, come ha detto Gali, ecco, magari no, certo, altrimenti probabilmente dovremmo passare il tempo a fare non noi, ma gli artisti dovrebbero passare il tempo a fare delle stories continue, esprimersi continuamente. Un po' negli Stati Uniti sta avvenendo, perché negli Stati Uniti, sì, questa cosa è molto sentita, probabilmente diventerà così anche da noi. Non ho idea, è un aspetto che sarà secondo me sempre più presente. Ti faccio un'altra domanda su questo argomento, Michele, cosa ne pensi del fatto, ad esempio, che si stiano esponendo molto in questo senso Chiara Ferragni e Fedez? Secondo te è sincerità, è come qualche cattivo dice, la volontà di posizionarsi diversamente nel loro ruolo di influencer? Guarda, loro, soprattutto Chiara Ferragni, è una figura del tutto nuova, no? Rispetto a quello che abbiamo visto negli anni scorsi. E io devo dire che già durante il loro durante il lockdown, quando loro hanno fatto quella raccolta fondi, tra l'altro, certo, efficacissima, no? Per la sala del San Raffaele, per implementare gli aiuti per il San Raffaele, ebbero un grandissimo successo. E inizialmente, quando hanno iniziato, io ero il primo a essere un po' scettico. Quindi secondo me lei è molto brava a saper dosare questo, no, quello che si diceva un tempo, no, l'alto e il basso, quindi, certo, riuscire a fare il selfie simpatico il filmato col figlio. Che io amo, io vorrei milioni, vorrei una diretta totale 24 su 24 perché è troppo simpatico. E poi invece poi parlare di cultura fascista e insomma e altre dichiarazioni che ha fatto. È sicuramente un fenomeno nuovo da osservare e secondo me è ancora nella fase in cui dobbiamo osservare, e lei da questo punto di vista è sicuramente, sì, una innovatrice della comunicazione. Sì. Ecco. Matteo da Modena, a maggior ragione nel 2020 in un contesto di crisi democratica ed intellettuale, chi ha ascolto deve prendere posizione. Ancora, non credo ci fossero dubbi su quale sia la parte giusta, appunto, scrive un... Sì, io non, su questo credo che fortunatamente non dobbiamo neanche stare a discutere. Ecco, è un aspetto davvero, lo ripeto, secondario in tutta questa storia gravissima, però è qualcosa, sì, che ci accompagnerà sempre di più, questo aspetto della comunicazione di cui parliamo appunto in questa trasmissione che parla di comunicazione. Ti dirò di più, scusa, tra l'altro è una cosa che non coinvolge soltanto le celebrities, insomma artisti eccetera, ma coinvolge anche le marche stesse, i brand, certo. Che sempre di più prendono posizione. Aspetta, Michele, ci stai perdendo per qualche istante. Facciamo una cosa, diamo la pausa. Ricolleghiamo Michele Boroni, ritorniamo su questo aspetto delle aziende che prendono posizione tra pochi minuti. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora con RadioTube, prima di tornare con Michele Boroni a questo ragionamento molto interessante sul prendere posizione pubblicamente su fatti che coinvolgono e che riguardano motivi molto salienti e che riguardano dibattiti di grande attualità, vorrei confermare le indiscrezioni che sono arrivate nelle ultime ore. Adesso confermare, dare la visione dell'ANSA, dell'agenzia ANSA, che dà una sua prima conferma dei rumors che circolano da ore sul palmarès di Venezia. L'Italia sarebbe fuori dai premi principali, o meglio ne prenderebbe uno, la Coppa Volpi maschile, che sarebbe andata a Pierfrancesco Favino per l'interpretazione in Padre Nostro di Claudio Noce. Ma nel palmarès, anzi io sempre ridendo lo chiamo il Leone Res, tra i premi principali ci sarebbero tre film che io ho adorato, anzi i miei tre film preferiti di Venezia, se finisce così io sono contenta, cioè Nomadland con Frances McDormand, Nuevo Orden del messicano Michel Franco, tra questi due ci sarebbe Il Leone d'Oro, e Cari Compagni di Andrei Konchalovsky, tre film bomba, e quindi sarebbero questi tre film ai quali vanno i premi veneziani. Speriamo, perché mi piacerebbe molto se finisse così questa Venezia 77. Ma torniamo all'argomento di cui parlavamo poco fa, le aziende che prendono posizione su fatti di cronaca, su argomenti di attualità che coinvolgono dibattiti, che suscitano dibattiti nell'opinione pubblica. Michele Boroni, prima della pausa ci stavi dicendo che... Sì, stavo dicendo proprio questo, che appunto i marchi attraverso le proprie pagine web, i social network, le pagine sui social, un tempo nel marketing si parlava di posizionamento, no? Cioè come un marchio era posizionato ma nella mente del consumatore, no? Cioè se era un brand di lusso, se era un brand, diciamo, mainstream, eccetera, e invece adesso si è passato dal posizionamento al prendere posizione, quindi marchi importanti e non, comunque soprattutto su delle istanze civili e sociali, vuoi appunto le lotte razziali, eccetera, eccetera, l'LGBT e altre cose, prendono posizione ed è un, come dire, sono scelte importanti, interessanti, che non sempre portano a un, come dire, ad un allargare la propria notorietà commerciale del marchio, anche perché a volte, come dire, sono istanze forti, soprattutto in America. Se sono divisive si rischia di invece di perdere, si rischia di perdere dei potenziali dei clienti. Certo. Certo. Allora, certo. Io poco all'inizio della trasmissione dicevo parliamo di quel famoso catalogo, scherzando ho detto non parlo la marca, ma ovviamente stiamo parlando di IKEA, non è che... Ma vorrei introdurre questo argomento in questo modo, con questo video. Hello. Please relax and follow Eve as she takes you through Product Pose Yoga by IKEA to help with health and wellness in the home. Allora, è divertentissimo, questo è IKEA Australia, anzi IKEA Australia, fanno lo yoga dei prodotti, cioè c'è una splendida ragazza che fa yoga in maniera invidiabile e fa delle posizioni che poi evocano i prodotti. Il video è come sempre molto efficace, come sempre nel caso di questa azienda, ma una cosa che fa tutti gli anni Michele Boroni e che tutti gli anni in rete aspettiamo con ansia è l'interpretazione sociologica del nuovo catalogo. Che cosa dice? Io non sento più. Abbiamo perso Michele, ritroviamo Michele Boroni? Riproviamo il collegamento? Allora, io non ce l'abbiamo ancora? Vabbè, io vado avanti posso anche andare avanti a parlare per un bel po'. Oppure possiamo anche cominciare a passare al secondo argomento. Ditemi voi se recuperiamo Michele Boroni. Ce l'abbiamo. Eccoci Michele. Cioè, ci sei? Scusate, ma no, non è colpa tua, succede. E la tecnologia ci viene in aiuto, ma a volte la stressiamo fino alle sue ultime possibilità. Che cosa dice del 2020 questo catalogo? Sì, in realtà cosa dice del 2021? Perché in realtà 2021. Esce oggi, esce nel settembre, ma si parla del 2021. Sì, cosa dice? Ogni anno riesce sempre a, come dire, a cogliere certi segnali e a trasformarli su quelli che saranno i nostri stili abitativi. Lo stiamo perdendo di nuovo Michele, evidentemente la rete ha deciso di non assisterci più. Proviamo a recuperarlo per telefono? Mi stanno dicendo di sì, facciamo al volo il numero, Tanto fatemi ringraziare in regia Filippo Aureggi, che è lì pronto con tutti i suoi tastini e i suoi pirolini, e invece davanti ai telefoni, ma non solo, addetto all'appoggio emotivo, c'è Edoardo Lavezzari. Alla redazione, all'appoggio emotivo, ma a realizzare questa puntata con me c'è stato anche Jacopo De Franchi. Michele, adesso ti abbiamo recuperato al telefono per essere tranquilli, perché la rete ha deciso di non assisterci più. Vabbè, succede. 2021, sì. Cosa sarà per il mondo secondo questa azienda? Per il mondo, mai come quest'anno, mai come in questi mesi che abbiamo vissuto nel 2020, la casa è stata vissuta in modo così pervasivo, no? E certo, intenso. E quindi tutte queste cose si riflettono sul nostro nuovo modo di abitare, che in realtà è interessante che loro non parlano più di abitare, ma di vivere la casa. Certo. Proprio perché è diventato un elemento importante. E quindi cosa in concreto? In concreto c'è il lavoro da casa, e quindi ci sono mille soluzioni di scrivanie che scompaiono, o di sedie ergonomiche, tutto. Quindi il mondo dello smart working, visto che molte persone ancora lavoreranno da casa, e quindi ci sono tutta una serie di soluzioni in questo senso. Poi un'altra cosa interessante che ho notato è che ormai il salotto è diventata la stanza dove si fa tutto, appunto, si vede la televisione, si sta insieme, si lavora, ma anche è invaso dai bambini, di solito, cioè, non sono più chiusi nella cameretta. No, ci sono queste camerette che sono però tutte abbastanza classiche, però poi ci sono molte foto dove si vedono questi bambini che stanno in piedi sul divano, mettono il trenino sul tappeto, e quindi c'è proprio questa invasione. Ecco, io i piedi sul divano non ce la posso fare, io sono ancora un po' antica per queste cose. L'altra cosa molto molto interessante è che si vede subito anche dalla copertina, che di solito era sempre o una cucina o appunto un soggiorno, questa volta per la prima volta c'è un letto. Un letto pieno di cuscini, di piumoni, eccetera. E quindi c'è questa tendenza che in America è molto molto forte, al punto che si dice che il sonno è il nuovo sesso. E quindi in America stanno ci sono marchi importantissimi che producono materassi, piumoni, cuscini ergonomici, eccetera eccetera, i topper, che sono questi specie di materassi sottili che stanno sì, ho imparato anch'io rete. Che c'è il topper. I sì, topper. Sì, sì, okay. Sì. Ecco, e quindi anche IKEA raccoglie questa tendenza e dedica tantissime pagine al riposo, al letto, quindi a cuscini, eccetera, con prezzi anche più alti rispetto a quelli che sono gli standard. Quindi siamo disposti a spendere di più per dormire meglio. Per dormire meglio, ecco. Sì. E poi l'altra cosa che si evince abbastanza facilmente è tutto il tema della sostenibilità, che in questo caso si vede anche con la creazione di piccoli giardini domestici composti da piante in ogni condizione di luce, temperature e umidità. Quindi anche se tu abiti a Milano, insomma, nelle zone magari dove non c'è molta luce, eccetera, si può sempre avere un angolo di verde all'interno della casa. Bene, questo sarà il 2021. Questa cosa del sonno e il nuovo sesso, devo ancora metabolizzarla, vediamo. Su questa devo ancora formulare un'opinione. Un po' di musica adesso, scopriamo perché. Nessuno guarda più. Fatto amare, però non sei ha fatto dare, bro. Sì, l'hai fatto male, forse tu sei fatto male, bro. Marrakesh featuring Elisa. Questo è un pezzettino di un live molto interessante di questa settimana. Concerti dal vivo. Siamo stati senza concerti per molto tempo, stanno tornando in tante forme. Facciamo una cosa, chiedo al nostro ospite ancora un pochino di pazienza, ti devo almeno un caffè dopo quello che ti sto facendo aspettare, ma abbi pazienza, lo sai che io sono una ragazza sregolata. Viabilità e poi parliamo di questo concerto, ma non solo. Radio Tube Social Network. Allora, cos'era? Do il benvenuto all'altro nostro ospite di Radio Tube. L'ho fatto aspettare tantissimo, perdonami, Andrea Conti. Ciao Andrea. Ciao Marta, buon pomeriggio a tutti. No. Marta, tu puoi tutto, non ti preoccupare. Perché siamo amici. Andrea, sul Fatto Quotidiano online ha scritto molto spesso in questi mesi dei concerti che prima non si potevano fare, poi si possono fare con distanziamenti, con misure di sicurezza molto imponenti, ma c'è stata una novità questa settimana, il concerto, come lo definiamo, in streaming, un concerto che ognuno poteva seguire da casa pagando un biglietto, così, esatto. Sei spettatore di un concerto a distanza, questo Heroes all'Arena di Verona. Cosa ne pensi, Andrea? Allora, in realtà intanto dobbiamo dire una cosa, che comunque chiaramente i live e i streaming non sono una novità enorme. La novità in Italia era il live streaming a pagamento, quindi la gente, e qua parliamo di 30.000 persone, quindi sono tantissime, che hanno pagato un biglietto virtuale per poi entrare in questa piattaforma e poi da questa piattaforma accedere al palco principale dell'Arena di Verona. Andrea, quanto costava il biglietto per Heroes? Non me lo ricordo. I biglietti costavano dai 30 ai 50 euro, però sostanzialmente a seconda della classe di biglietti tu potevi accedere o alla palco principale, chiaramente, oppure c'era un altro palco che era un collegamento con una telecamera sotto il palco, quindi era come se tu fossi nella lettera insenne, per intenderci, e poi c'erano altri contenuti che tu potevi visualizzare a secondo, quindi chiaramente, di quanto pagavi, e per esempio ti collegava con una stanza virtuale dove c'erano degli influencer che intervistavano artisti e operatori del settore. Singolare, quindi, effettivamente qualcosa di interessante, ovviamente, sì, ripetendo che i live sono una qualcosa di insostituibile, però ad esempio a me farebbe piacere poter acquistare il biglietto per un live che magari si svolge da un'altra parte del mondo, essendo il live, esatto, irripetibile, un artista americano, africano, asiatico che non ha in programma un tour europeo, io magari sarei contenta di poter comprare i biglietti per assistere a distanza a un live lontano. Non solo, però neanche senza andare anche tanto lontani, no? Per esempio, se noi pensiamo a un evento come Una Nessuna 100.000 con le grandi donne della musica italiana che si svolgerà poi il prossimo giugno nella nuova arena di Campovolo, beh, in quel caso metti che un fan di Catania non si può spostare per arrivare fino all'assù, beh, allora paga il suo biglietto e se lo guarda comodamente da casa sul divano. Quindi sono d'accordo. Voglio dire, è una strada parallela. Io vedo che in Italia ancora si fa fatica, mentre in altri paesi come in America e in Inghilterra no, perché ha preso piede. Beh, pensiamo anche a Fortnite, che insomma sta promuovendo questo tipo di live streaming. In Italia ancora c'è qualcuno che storce il naso e dice no, ma i concerti sono un'altra cosa. Ma è ovvio, cioè è chiaro che i concerti sono un'altra cosa. Qui parliamo di business. Business is business. Michele Boroni, cosa pensi di questa nuova via? L'abbiamo perso? Non ce l'abbiamo più? Eccomi. Michele, eccolo. Eccomi. Mi sfuggi oggi. Cosa pensi di questa nuova via? sì, penso che sarà sempre più un'integrazione, perché insomma io stento a credere che il 2021 sarà un anno, sarà un'estate in cui torneranno le cose come nell'anno scorso, ecco, e quindi diciamo che ci torneranno gli eventi dal vivo, ma anche qui ci saranno ancora delle... come dire, delle regole ben chiare, quindi ben venga lo streaming, che permetterà di integrare il pubblico e quindi fare in modo, come diceva Andrea, di intervenire anche se non dal vivo ma attraverso lo streaming. Quindi ben vengano, io credo che è giusto che in questi mesi si facciano questi tipi di esperimenti. Per avere poi il prossimo anno una giusta integrazione tra live e live streaming. Ci chiede un ascoltatore al 349-238-6666, con la connettività come la mettiamo? Andrea, com'è stato seguirlo via streaming? È stato facile, è stato difficile, funzionava tutto? Io ero già a Venezia, non l'ho visto. Allora sì, in realtà sì, nel senso all'inizio c'è stato solo qualche problemino tecnico per quanto riguarda le telecamere, ma quello è normale perché comunque dovevano settare proprio lo streaming, proprio, ma parliamo della prima mezz'oretta. Dopodiché è andato tutto liscio come l'olio, nessun problema, anzi sui social c'era chi ironizzava dicendo beh, però Mediaset e Rai potrebbero imparare qualcosa dallo streaming di Eros, ed effettivamente è vero. Cioè, nel senso, non c'è stato alcun intoppo per tutta la serata. Parliamo di 5 ore, eh? 5 ore filate. Ah, certo, quindi c'è la prima mezz'oretta, sì, però 5 ore effettivamente è stata una bella maratona. Una maratona, esatto, sì. Vero. Grazie ad Andrea Conti, ti aspetto presto in studio, speriamo. Grazie Andrea, un abbraccio. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, nell'ultima parte di RadioTube di solito andiamo a vedere un po' i video di YouTube in tendenza. Questa settimana ce n'era più di uno che mi è piaciuto. C'è stato un ragazzo che ha fatto un'impresa, secondo me, da pazzi. Lui si chiama Jackie Dale ed è andato da Milano a Roma. Ma come è andato da Milano a Roma? Filippo, facci sentire. Ho deciso di andare a Roma in monopattino elettrico. Un'idea assurda, folle, fatta apposta per me. E allora ho fatto qualche test di autonomia, ho preparato il monopattino, ho recuperato una seconda batteria, pezzi di ricambio, ho preparato lo zaino, ho chiamato la persona più pazza ed esperta di viaggi che io conosca e sono partito per un'impresa mai tentata prima. Allora, Jackie Dale è in questo momento il numero 2 nelle tendenze italiane di YouTube. In questo istante ha 1.444.409 visualizzazioni ed il video è stato pubblicato ieri. Jackie Dale ha 1,36 milioni di iscritti. Però, che dire, ha fatto davvero una cosa assurda, perché è vero, lui è andato da Milano a Roma in monopattino. Come lo commenti questo video, Michele? A me ha molto divertito e poi ho trovato veramente abile la narrazione e la regia visiva. Sì, cioè, è un documentario, dura 38 minuti, è un piccolo documentario, ma molto ben fatto. Ed è fatto molto bene, ha un gran ritmo, ha quel ritmo un po', diciamo, per capirci un po' dai filmati delle Iene, no? Però molto, fatto veramente bene, a volte anche... fatto meglio di quelli che vediamo, quelli diciamo un po' più dinamici che possiamo vedere in TV, quindi al di là dell'impresa che è molto divertente e lui che è anche bravo, ironico eccetera, a me è piaciuto tantissimo la costruzione, il montaggio, quindi ben vengano questi video su YouTube. Sono contento che siano nelle prime posizioni dei trend, ecco. Sì, ce n'è un altro che mi è piaciuto molto. Hanno fatto meno fatica fisica perché non sono andati in monopattino, ma l'autore è un altro youtuber amatissimo dai ragazzi, si chiama Anima. Quanti abbonati ha? 3,51 milioni di iscritti. Il video è il numero 10 nelle tendenze italiane. Si chiama Pechino X Trash. Benvenuti su Pechino X Trash, una serie che è uscita così. Siamo a Milano, sabato 11 luglio, abbiamo 7 giorni per arrivare a Palermo. L'unica regola è non spendere più di 25 euro al giorno. Ovviamente suddiviso fra alloggio, cibo e viaggio. Una volta raggiunta quella cifra dovremo per forza fermarci, a meno che non troviamo qualche buon samaritano che ci dà un passaggio e o riusciamo a scroccare in qualche modo, ma in questo viaggio non sarò da solo. Beh, devo dire, un'altra l'idea magari non originalissima, sono già stati fatti in mille modi con un budget al giorno. Però anche questo, ben montato, molto divertente, questo a puntate, quindi non è tutto insieme, la prima puntata dura un quarto d'ora, 16 minuti e 13 secondi, è già uscita la seconda puntata, però viva le idee, anche lui bravissimo. Sì, tra l'altro lui era uno dei mates, sì, che era questo gruppo che nasce fondamentalmente dai videogiochi, no? Dai commenti sui videogame, e poi sono riusciti proprio attraverso queste idee molto divertenti e creative a ampliare i loro temi e i loro video. Io devo dire che divertente. Se avete voglia di vedere qualcosa di divertente, fate un giro su YouTube, guardate, non sono robe per ragazzini, anche se sono molto amati dai ragazzi, sono veramente dei video divertenti. Michele, però in conclusione devo dire che la tua affermazione di questa nuova tendenza sociologica del sonno come nuovo sesso ha turbato in tanti. Mi arriva un messaggio proprio dal nostro sistema interno che utilizziamo per comunicare tra studio e regia, quindi non so se è stato Filippo Aureggi, non so se è stato Edoardo Lavezzari, ma commentano: ci teniamo volentieri quello vecchio di sesso. Quindi sappi che la posizione ufficiale di Radio TV è stato Edo, va bene. Grazie a Michele Boroni. Grazie a voi. Un abbraccio grande, ti aspetto sempre a braccia aperte a distanza a Radio TV. Alla prossima, certo. Grazie Michele. Alla prossima, grazie a tutti, ciao Marta. Noi con questa affermazione pesante chiudiamo il nostro Radio TV di questa settimana. Ci ritroviamo la prossima, anzi domani mattina per Radio TV l'intervista, e poi ancora in diretta la prossima settimana con Radio TV.